Diavol, buonasera e bentornato a Michael e Mirko, che è sempre un piacere ospitare qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ciao Michael e Mirko. Ciao, ciao. Allora, oggi sei stato invitato per parlare di due prodotti che hanno al centro il tuo lavoro. Il primo è L'Isolo, l'ultimo fumetto uscito per Bao Publishing, che è appunto da qualche mese in libreria, e poi qualcosa che non è ancora uscito, ma che uscirà tra 3 settimane, una nuova rivista a fumetti mensile che sarà accompagnata dal manifesto e uscirà in edicola dal titolo La fine del mondo, che vedono a te come ideatore della rivista, ma ovviamente una rivista che presenta diversi autori e autrici, alcuni a dire il vero io neanche conoscevo. Cominciamo, andiamo per gradi. Cominciamo dal tuo lavoro per Bao, L'Isolo. Tu sei tornato appunto con un altro fumetto, tu mi fai ridere e questa cosa e continui a farmi ridere. Qual è il tuo segreto, appunto? Il segreto è non pensare né quando scrivo né ai lettori né agli editori, ecco, e nemmeno all'autore soprattutto. Non c'è nessuno tranne i personaggi quando scrivo. Quello è veramente l'unico metodo che ho ed è un metodo in cui scrivi solo per i personaggi, in realtà per fare contenti poi alla fine sia ai lettori, sia agli editori, sia addirittura all'autore che è incontentabile. Senti, al centro di questo libro c'è la solitudine. Sì. L'isolo, io so l'isola, isolo, io solo, isolato, isolamento, no? E infatti il personaggio vive solo, appunto, circondato dal mare. Tu aggiungi addirittura proprio come tutti noi, e a me non risulta che tu vivi solo, tutt'altro, però raccontaci cosa c'è dietro l'idea di questo libro e che cos'è per te a questo punto la solitudine, tanto da dedicargli un fumetto. Allora, io partirei sempre dal distinguo tra quello che provo io e quello che provano i miei personaggi, nel senso che io uso proprio la scrittura per non evitare di raccontare Michael, di raccontare Mirko, ma soprattutto per raccontare, mettermi ecco, nei guai con personaggi che magari nella vita non frequenterei, ma che invece da autore amo frequentare, no? Quindi c'è quello io ho un rapporto con la solitudine che è completamente diverso da quello del protagonista. Il protagonista nasce, e questo libro nasce come tutti i miei libri, da un'idea semplicissima e pura, che è quella di un uomo solo su un'isoletta minuscola, perché non è un'isola che posso dire a Robinson o un'isola di Lost, ecco, un'isola da visitare, da attrezzare, da sistemare, da abbandonare. È proprio l'isoletta quella delle barzellette, no? Quella monoposto direi. Una palma e un piccolo metro quadrato di terra. E quando ho iniziato a scrivere questo libro, l'unica certezza era che avrebbe raccontato la storia di questo personaggio. Non avevo altro in mano e non ho avuto altro da fornire all'editore prima di mettermi già al lavoro. Cioè, ho iniziato il libro senza sapere perché il protagonista stesse lì, chi fosse, se volesse andarsene via, se ci fosse finito volontariamente. La solitudine è chiaramente il tema principale di questo libro, però per quanto assurdo che io dica, sto raccontando la storia di una persona sola su un'isola da solo, non era quello il tema che avrebbe guidato il libro. Cioè, l'idea era quella di raccontare il massimo con il minimo. E direi che l'isola poi si racconta chiaramente la solitudine, ma racconta anche una serie di cose. In realtà, quando uno è da solo sta raccontando più l'umanità, soprattutto se fa l'eremita, che se stesso, no? Diciamo che una persona è sola solo quando ci sta qualcuno da abbandonare, qualcuno da cui allontanarsi, altrimenti non sarebbe solo, ma sarebbe unico, no? E questo, si sente in sottofondo il gatto probabilmente che vuole entrare, perché il gatto non vuole stare solo. E quindi niente, è un libro che in realtà ho scoperto alla fine di cosa parla, come tutti i miei libri. Il libro finisce che lui legge una lettera e devi credermi, quella lettera l'ho letta io assieme al personaggio mentre la teneva in mano. Il mio è un modo di scrittura così, che può sembrare assurdo, ma è veramente l'unico modo di scrivere che ho. E veramente cioè, l'unica cosa che rispetto quando scrivo è quello che vogliono fare i personaggi, come si vogliono muovere, quello che vogliono dire. Per esempio, c'è anche una parte di Michael e Mirko che vorrebbe imporre delle cose ai miei personaggi. Per esempio, ho disegnato una serie di personaggi che sarebbero venuti a disturbare la quiete del personaggio sull'isola, che sarebbero sbarcati, che avrebbero provato a portarlo via o chissà cosa, ed erano tutti di character design, tra l'altro bellissimi, che amo, ma il mio personaggio si è rifiutato di inserirli nella storia. E quindi non li vedrete, però ecco, sono in balia di quello che succede nelle storie, però credo che in realtà i grandi fumetti, le grandi storie non siano tanto il character design di un personaggio, il ruolo che ha diciamo il pensiero di un personaggio o di un altro, ma siano veramente le interazioni che succedono tra un personaggio e l'altro. Il cuore di una storia è quello che avviene tra un personaggio e l'altro. Quando iniziamo a fare fumetti, immaginiamo sempre il miglior protagonista possibile, disegnato in un certo modo piuttosto che in un altro, con un background che ci sembra incredibile. Poi in realtà, però, i personaggi che funzionano sono quelli che riescono a reagire agli altri personaggi in una maniera nuova, in una maniera diversa. E secondo me questo libro è proprio diverso da tutta la mia produzione, che ho avuto anche i lettori, i fan, insomma, quindi mi seguono sempre, che sanno le storie mie più di come le conosco io, hanno avuto una risposta diversa, sembra proprio un libro diverso. Allora, un libro diverso, anche che però mantiene ovviamente sempre la stessa cifra stilistica, va ad attingere un po' a un grande classico, no? Quello là dell'Isola Deserta, Dove andare a vivere, ha fatto un grande classico della letteratura, ovviamente, no? Tu hai citato Robinson Crusoe, L'Isola Misteriosa, mi viene in mente Il Signore delle Mosche, L'Isola del Tesoro di Stevenson, quindi c'è tutto un mondo. Appunto, anche un mondo classico di letteratura classica che vanno a raccontare, no, l'isola, le cosiddette isole deserte. E quanto della frammentazione della nostra società, che è sempre più individualizzata, c'è nel tuo libro? Se c'è, ovviamente. No, la società è purtroppo sempre presentissima, perché è impossibile raccontare un personaggio veramente solo. Siamo proprio frutto di tutta una serie della somma di tutti noi. Quello è, secondo me, è proprio fondamentale capire che quando racconti qualcosa in particolare stai raccontando tutto. Gli Scarabocchi, anche per accumulo di storie, per differenza di personaggi, visto che ne sacrifico una pagina nella serie delle vignette, raccontano proprio, tentano o simulano di raccontare, no, l'universale, e lo raccontano semplicemente partendo dal particolare. Sono tutte storie minuscole, minime, chilometro zero, che sommate tutte assieme danno un'idea a volo d'uccello di quello che succede nella nostra storia, nell'umanità. Questo, secondo me, è un altro libro che, cercando di raccontare il meno possibile, poi alla fine allarga con il campo della rappresentazione, usando l'archetipo dell'isola. Tu conta che ho passato un anno a cercare il titolo del libro, perché volevo chiaramente lavorare sull'isola e volevo dargli un titolo eccezionale, per dire una cosa tipo l'isola del diavolo, chiaramente, no? E volevo un nome assurdo. E ho scoperto che non esiste il nome di un'isola figo che non è già stato dato. Cioè, esiste un'isola o reale o dell'immaginazione, quindi un titolo, una canzone, un libro, un film, un fumetto, che ha una declinazione dell'isola già presente. Esistono, no, esistono isole di qualunque nome. E ci ho messo un anno perché volevo veramente costruire, proprio oltre alla psicologia di questo libro, volevo costruirne anche la geografia. Mi sembrava che il nome fosse la cosa più importante da dare, ed è la in realtà poi noi diamo il nome a tutto, diamo il nome a qualunque cosa ci si avvicina, a qualunque cosa possediamo, a qualunque cosa ci troviamo sopra, e quello è stato proprio faticosissimo, proprio perché l'isola è nell'immaginario di tutti da sempre. E quando dico siamo tutti circondati dal mare, è la verità, per quando uno vuole vivere in Europa o dappertutto, siamo comunque circondati dal mare. Il mare è quello che ci circonda, e siamo tutti delle isole, magari affollatissime, magari fatte di più stati, magari enormi, di cui non riusciamo a vedere i confini, però siamo tutti isolani. E questa cosa, prima la capiamo, meglio è, per renderci conto di quanto chi arriva dal mare, chi frequenta il mare, sia un abitante della terra, nostro coinquilino logica, no? Tutta l'altra al mare, ci vivi fronte al mare. Sì. Nella tua carriera, no? Nel senso ormai hai messo dentro diversi libri e anche il tuo, cominciamo ad avere qualche anno sulle spalle, giusto? Di carriera, qualche libro, appunto qualche libro sulle spalle, ti stai cimentando in qualcosa di completamente diverso che ti vede sia come autore, sia però come direttore. E parliamo appunto, scivoliamo verso la rivista del manifesto alla fine del mondo che uscirà, ora ci racconti tutto a metà dicembre, appunto in edicola, ed è anche un esperimento che è un po' differente, no? Nel senso che sempre, cioè, Sì. le edicole chiudono e Michael e Mirko insieme al E noi manifesto apriamo. tirano fuori una rivista a fumetti essenzialmente per edicola, ma poi non andrà soltanto in edicola. Si va contro tendenza, allora parliamo un po' di questo progetto che vedete al centro di tutto, sia come autore e sia appunto come direttore della rivista stessa, o sbaglio, che non so se direttore è la Allora, parola giusta oppure se. direttore no, perché bisogna essere giornalisti, quindi il direttore è Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto, però sono ideatore e curatore, quindi diciamo che Esatto. rimango il colpevole anche L'unico provando a delegittimarmi. responsabile. Sì, guarda, mi fa piacere, è un regalo poter presentare l'Isolo e la rivista assieme, La fine del mondo, perché parlando di tutti e due è la dimostrazione plastica del ruolo che ha la graphic novel e del ruolo che invece ha la rivista. Per esempio, l'Isolo è un libro che non è possibile serializzare, anche se apparentemente per la prima parte sembra una serie di vignette ambientate su un isolano, quindi proprio un classico di riviste come Linus, di cose americane, come gli emarginati esistono già come format, però in realtà l'Isolo funziona solo nella forma libro, mentre la rivista è un altro linguaggio che da troppo tempo, a mio avviso, manca, la rivista pura dei fumetti. Io inizio proprio l'editoriale numero zero dicendo una cosa importantissima per me da lettore, che quando sono nato i fumetti erano considerati proprio carta straccia, roba per bambini, roba per lettori pigri, roba per persone poco scolarizzate o comunque qualche intellettuale che li leggeva semplicemente stava cercando di ammazzare il tempo, quindi letteratura pura d'evasione. Eppure in quel momento in cui il fumetto era bistrattato esistevano riviste incredibili che tuttora studiamo a scuola, studiamo all'università, da Linus di Oreste Del Buono, proprio una grana da intellettuale della rivista, fino a Frigider, Il Mago. Io sono cresciuto personalmente col giornalino che era pensato addirittura dalla San Paolo, dal fratello minore della famiglia cristiana e conteneva i migliori autori di fumetti. Adesso invece che il fumetto è proprio riconosciuto come una non arti, la non arte, tanto che insegno, sono pagato dallo Stato per insegnare fumetto all'Accademia delle Belle Arti, che è una cosa fuori dal mondo, per come la pensavamo anni fa. Adesso che il fumetto sposta il cinema, letteratura, i videogiochi, che lo trovi in libreria, in vetrina, adesso non c'è una rivista che punti solo sul fumetto. Esistono tantissime riviste, a mio avviso anche tutte belle, che usano il linguaggio del fumetto, ma una rivista che parli solo di fumetto, come è La fine del mondo, non esiste. Non esiste più. Infatti, La fine del mondo è solo fumetto, non esistono articoli, sono solo storie e si regge solo in piedi sulle spalle dei migliori fumettisti che sono riusciti a imbarcare, che vanno da Gibi, a Zero Calcare, a Zuzu e tantissimi altri che sono sconosciuti, secondo me, nel largo pubblico, ma non sconosciuti ai lettori appassionati. Penso a delle ragazze meravigliose, autrici meravigliose come Alice Sokal, Kalina Muoffa, Martina Serrizzu. Aspetta che dimentico qualcuno, mi sento male. Zuzu, Eliana Albertini, Eliana che Albertini, sono tutte vabbè. autrici che sono molto conosciute a chi legge i fumetti, ma arrivano, sbarcano su una rivista che invece è progettata non solo per chi legge i fumetti, anzi, direi che proprio che i lettori di fumetti sono considerati per ultimi, ma si rivolge proprio a chi legge poco i fumetti o addirittura a chi non li legge per niente. Vuole essere una scuola d'alfabetizzazione al fumetto. E come si fa una scuola di alfabetizzazione al fumetto? Semplicemente creando il maggior numero di storie, il maggior numero di fumetti al minor prezzo possibile, e diffondendolo il più possibile. Quindi partiamo dalle edicole che sono, essendo un allegato del manifesto, il luogo ideale dove trovarla, ma poi arriverà in libreria, in fumetteria, in abbonamento, in digitale, quindi useremo tutte le tecnologie possibili, però partendo dal tempio laico per eccellenza che è l'edicola di strada. No? E questa rivista permetterà mese dopo mese ai lettori di conoscere gli autori, agli autori di conoscere i lettori, perché potersi realizzare una storia, una serie è diverso da realizzare un libro. Un libro uno lavora 2, 3 anni addirittura per creare una storia che poi è una vita editoriale, a meno che non diventi un bestseller di qualche mese, no? E quindi la rivista nasce per rimettere questi personaggi, dargli confidenza con i lettori, con gli editori, con gli autori e anche con gli editori che potranno di volta in volta pescare nuove firme per la loro casa editrice. Senti, hai toccato un paio di tasti che mi interessano particolarmente, nel senso che hai parlato proprio di alfabetizzazione di chi il fumetto non lo legge. Si dice da tempo, no, che il fumetto è uno di quei settori che stanno del mondo editoriale sempre più in crisi, che invece continua a crescere come numeri, come dati, così. Anche se poi andando a vedere quello che è realmente il mercato del fumetto, eccetera, eccetera, i dati crescono anche perché alcuni autori barra autrici gonfiano appunto i dati Certo. stessi vendendo migliaia e migliaia di copie. Qual è il reale stato del fumetto secondo te, anche alla luce, no, del mettere in piedi un progetto del genere? Allora, guarda, il fumetto gode di una salute enorme, chiaramente ha un sacco di problemi, come tutti i grandi linguaggi, no? Ci sono autori che vendono, come dici tu, migliaia di copie, se non milioni, e a fronte di autori che invece non arrivano a vendere, che ne so, 300 copie. Questo però non influenza chiaramente la qualità del lavoro, No, certo. sono vari meccanismi che permettono agli autori di arrivare a tante persone, anche se sono convinto che comunque chi arriva a tante persone ha una qualità comunque altissima, no? Però esistono modi di raccontare che sono meno pop, lo dico con il più grande rispetto per la parola pop popolare, no? Quindi credo che il fumetto, un po' quello che diceva. Dopo Nietzsche lì del cinema, diceva il cinema e le sale, il cinema non morirà mai, no? Magari moriranno le sale cinematografiche, ma non me ne frega niente, il cinema non morirà mai. Il fumetto è nella stessa condizione, magari si evolverà in digitale, si evolverà in una maniera spuria, ci saranno autori che vedranno di più e vedranno di meno, ma il linguaggio del fumetto è vivissimo, soprattutto perché è capace, come dico a scuola, di raccontare cose complicatissime in maniera semplicissima. Ed è il linguaggio, da questo punto di vista, più contemporaneo possibile per raccontare i tempi complicati come i nostri, perché uno è economico, quindi può essere prodotto anche da una persona dentro casa con una matita e una penna, non ci sono bisogno di grandi attrezzature, meccanismi, mettere su chissà quale set, come succede col cinema, che uno non sa, un'idea cinematografica la maggior parte delle volte se la tiene in tasca, perché è difficilissimo trasformarla in un'idea reale. Il fumetto lo puoi realizzare subito ed è tra con il balletto che c'è, tra quello che è scritto e quello che è disegnato. Per tutti, qualunque persona può aprire un fumetto, già avere un'idea di quello che c'è dentro e leggerlo tranquillamente, e questo vi permette il fumetto di essere vivissimo. Poi ci sono i meccanismi chiaramente editoriali, ma diciamo che la fine del mondo nasce proprio per aggiungere una rotella nel meccanismo che mancava da un po'. Io credo che le case editrici in realtà stiano facendo un grandissimo lavoro, cioè pensare a tanti bei libri, in mezzo chiaramente a tanta immondizia, ma pieno di bei libri in fumetteria, libreria di autori curati, curatissimi anche nell'estetica, nella cartotecnica, con delle storie incredibili, con dei segni. Non esiste un segno oggi che non può essere tradotto in un libro, no? Da una casa editrice, ed è un momento eccezionale. Però chiaramente esistono dei meccanismi che impediscono a tutti di leggere tutto, e cioè il costo delle materie prime, no? Un libro comunque adesso ha un prezzo che a volte uno costa quanto uno non guadagna in una giornata, no? Quindi questo lo rende comunque un prodotto di nicchia, anche per uno che vuole leggere tutto il giorno. La rivista invece a bassissimo prezzo permette di leggere tutto. Diciamo che la rivista serve proprio a traghettare i lettori ai libri, no? però facendo riconoscere nuovi linguaggi, nuovi meccanismi, perché noi siamo abituati a leggere le cose che sicuramente ci piaceranno, no? Fruibili. Scusa, io parlo a valanga, ma Sì, perché no, c'è senti, non... veramente tanto da dire e lo lo sto so. scoprendo nel tempo che la sto facendo, mettendo sulla rivista. Senti, l'ultima cosa, l'hai già accennato più volte, l'hai anche mezzo detto, ma rifissiamolo. E me perché appunto leggendolo mi ha sorpreso lì per lì, poi appunto lo stavi dicendo, la serialità delle storie. È un po' inconsueto, no? Solitamente nelle Certo. riviste a fumetti così sono tutte storie autoconclusive. Mi sembra che qui invece il senso è proprio l'opposto, dalla tua a quella di Calcare, ma un po' tutte quante, se non sbaglio, sono seriali. Rispiegaci il perché la scelta del Certo. seriale, solo per fidelizzare? Allora, seriale proprio per permettere alle storie di avere una confidenza con i lettori. Però diciamo, sono anzi, tre modi ci sono di fidelizzare le cose. Alcune sono proprio come quello di Gibi, un romance tagliato a pezzi da leggere mese per mese, tra l'altro una cosa, un lavoro per me incredibile. L'altra formula è quella che è mia e di Zero Calcare, che è quella di un libro, quindi ci sarà un'opera intera di nostra, a episodi, quindi pensato che ogni episodio ha il suo ritmo, la sua leggibilità a sé, no? Che però va a completare una storia più grande, e poi c'è la terza cosa, invece sono delle serie come quella di Shintaro Kago, come quella di Martina Sarrizu, che però sono una serie di storie brevi, autoconclusive, dove i personaggi sono sempre diversi. Quindi secondo me la serialità è un regalo che si fa al lettore, chiaramente ci sarà un ricambio d'autori, un autore tra un ciclo e l'altro si prenderà una pausa, ne arriveranno già a breve di Ok. nuovi, non è che c'è un cast standard, però insomma è quello che succede in Giappone, di avere Shonen Jump mensile dove vengono pubblicati, che ne so, Naruto, One Piece tutte le settimane e arrivano serie nuove. La rivista vera deve avere gli autori per molto tempo e deve costare poco, perché se una rivista costa tanto rimane un progetto editoriale eccezionale, bellissimo, ma non ha lo sprint, il target vero della rivista, che è quello di essere un settimanale che tu con un mensile, ecco, diciamo che il mensile per me è il minimo che si può avere presso una rivista. Senti, allora, diamo le date, perché il numero 0 uscirà, se non sbaglio, a dicembre, e il numero 1 a gennaio. Ho detto una cavolata o è tutto No, è giusto? perfetto. Allora, il 18 dicembre andate in edicola e comprate La fine del mondo numero 0, con Gipi, Zero Calcare, Shintaro Kago, Michael e Mirko, Dottor Pira, Zuzu, Eliana Albertini, Kalina Muova, Martina Sarrizu, Alice Sokal, Bruno Bozzetto, Lise Talami, e addirittura ogni numero viene chiuso da una pagina di blu, il muralista che tutti noi amiamo. Esatto, volevo chiederti questa come ultima cosa. Hai messo in mezzo blu, che tra l'altro appunto non è neanche semplice da mettere in mezzo. Guarda, quello è stato proprio, devo dire, mi sono dato una pacca sulle spalle da solo, perché Blu proprio lo amo come autore. Però ho avuto la fortuna di essere amici, proprio che lo conosco da quando non era ancora Blu come era oggi, quindi non, poverino, non ha saputo dirmi no. Però secondo me quello è proprio il regalo finale quando uno si riporta a casa alla fine del mondo, ecco. Senti, io ti ringrazio, abbiamo parlato tanto, ricordiamo, abbiamo parlato di due lavori che vedono al centro Michael e Mirko. Il primo è L'Isolo, il suo ultimo fumetto uscito per Bao a settembre, se non sbaglio, agosto o Sì, quello settembre. già si trova in libreria, potete andarlo a Esatto, prendere anche oggi. si trova in libreria, sono non so quante pagine perché non sono numerate, ma un bel volumetto dal prezzo di Più di 22. 200 pagine, sì. Esatto, più di 22 euro, e poi abbiamo dal 18 dicembre in edicola e anche credo nelle fumetterie e librerie La fine del mondo, l'ultima rivista di fumetti, che è un lavoro organizzato, ideato e curato appunto sempre da Michael e Mirko, che vede partecipare altri e altre fumettiste, dal prezzo di 4 euro. Grazie Michael e Mirko, un abbraccio. Grazie, guarda, se ho un secondo, chiudo Vai. solo dicendo che il modo migliore per seguire La fine del mondo è su Instagram, dove abbiamo la pagina, all'account La fine del mondo rivista, così trovate tutte le informazioni per crediamo un po' alla volta e anche gli approfondimenti sugli autori. Perfetto, grazie ancora. Un abbraccione a tutti e grazie.